ringrazio di essere così numerosi a questa nostra iniziativa. È una settimana che possiamo considerare la settimana della storia dell'arte, visto i due appuntamenti che avremo. Oggi sono qui con noi il professor Emanuele Kurzel dall'Università di Trento e Stefania Lorandi, ricercatrice anche all'Università di Trento. Il tema è la presentazione di questo libro, Santuari d'Italia. Il volume è dedicato al Trentino Alto Adige Südtirol e il piano dell'opera prevede invece tutte le regioni d'Italia. Ho visto, siamo a un buon punto, ne sono usciti 8 mi sembra finora, però questo ci interessava in particolar modo visto che la biblioteca provinciale Claudia Augusta, in previsione del polo bibliotecario e in vista di una ottimizzazione delle collezioni, ha come punto di interesse la storia locale in tutte le sue sfaccettature e poi la saggistica a livello diciamo più scientifico e più e meno divulgativo, ecco, quindi un livello intermedio fra quella che può essere la saggistica di interesse per le scuole superiori e gli approfondimenti anche professionali. Siamo contenti di avere due persone che si occupano appunto di storia locale, di un settore anche così particolare. Ricordo che Emanuele Kurzel lavora appunto all'Università di Trento come ricercatore docente, è specializzato appunto in storia delle istituzioni ecclesiastiche ed in particolare è interessato, si occupa della zona alpina. Stefania Lorandi anche svolge un'attività di ricercatrice all'università, sempre in questo ambito, e soprattutto l'abbiamo conosciuta, abbiamo già avuto contatti come biblioteca con lei e anche con l'Associazione Italia, quindi ci sono più legami che ci incrociano. E poi così Emanuele è stato anche un mio compagno di università nel secolo quindi scorso. La vita, sì, nel secolo scorso, la vita dopo 20 anni riporta, anzi più di 20 anni ci riporta ad avere dei momenti comuni che mi fanno anche particolarmente piacere. Vi ringrazio, seguiteci, lasciamo sempre sulla sedia e non lo smetteremo di fare un foglietto che è il modulo di iscrizione, al quale che chiediamo di compilare chi non fosse iscritto, se ha piacere di essere informato delle nostre iniziative, di partecipare a questa nostra vita di bibliotecari, di servizio pubblico che eroghiamo gratuitamente, e per noi è un riscontro anche al fine di vedere, di valutare se il nostro servizio può essere utile alla comunità. Inoltre abbiamo lasciato anche la cartolina del prossimo appuntamento e soprattutto questa che è il solito bando di concorso, un premio che lasciamo, che diamo ai laureandi o ai laureati anzi che hanno discusso una tesi di interesse locale. Quindi se avete conoscenze o se avete fatto uno studio in questi ultimi anni che riguarda il territorio, dalla medicina, all'architettura, dalla storia, all'educazione, non è importante la facoltà, noi siamo interessati a questi documenti e quindi facciamo una sorta di premio, diamo un riconoscimento anche in termini economici, perché questi sono materiali che non si trovano nei canali commerciali tradizionali. Ecco. Vi ringrazio, cedo la parola ai nostri gentili ospiti e buona serata a tutti. Grazie Valeria per questa introduzione, e volevamo organizzarci in questo modo. Io comincerò con alcune annotazioni circa il motivo di questa ricerca, di questo volume, poi passerò la parola a Stefania Lorandi per il suo intervento e poi concluderò di nuovo io con alcune altre riflessioni sul tema. Devo spiegare per cominciare perché abbiamo costruito questo libro, un libro che ha molti autori, come vedrete se vi capiterà di aprirlo, perché vi sono due curatori, cioè il sottoscritto e il professor Gianmaria Varanini, attualmente ordinario di storia medievale all'Università di Verona, ma per molti anni appunto ordinario di storia medievale a Trento. E vi sono svariati altri autori che hanno collaborato sia per quanto riguarda le parti introduttive, sia per quanto riguarda la schedatura. Tra questi c'è Leon Dergassen, c'è Giuseppe Albertoni, c'è Stefania Lorandi che è qui presente, c'è Laura Dalprà. Ma devo un po' spiegare prima di tutto appunto dove nasce questo volume, perché a un certo punto un gruppo di persone decidono di organizzarsi per produrlo. Come ci è già accennato, è il volume regionale di una collana nazionale che ha preso il via da ormai una quindicina di anni fa, più di 15 anni fa, a Roma, presso l'École Française de Rome. Cioè, l'École Française è storicamente il luogo di ricerca storica e storico-culturale voluta dalla nazione francese a Roma, ma che non si occupa di storia della Francia, si occupa di storia d'Italia, e che sotto la guida del suo allora direttore André Vaucher, un grande storico della spiritualità medievale, ha voluto avviare e coordinare gruppi di lavoro che sono formati in tutte le regioni italiane per avere una mappatura, una schedatura dei santuari italiani. L'operazione è tutt'altro che semplice, non tanto o non solo perché si tratta di oggetti che hanno sono composti di storia a più livelli, che vuol dire storia che si fa con i documenti, storia che si fa con lo studio della storia dell'arte, storia che si fa con lo studio delle tradizioni popolari, ma anche perché lo stesso oggetto santuario è un oggetto non ben definito. Non esiste come categoria né giuridica né canonistica, nemmeno il diritto canonico definisce precisamente il santuario. Noi sappiamo quante sono le diocesi italiane, sappiamo quante sono le parrocchie della diocesi di Bolzano o di quella di Trento, ma non sappiamo quanti sono i santuari, perché la definizione di santuario è una definizione, come dire, liquida. È chiaro che noi chiamiamo Pietralba, Weissenstein, un santuario, ma poi, scendendo di livello, dov'è che finisce il santuario e dove inizia la semplice chiesetta alpina alla quale una volta all'anno andiamo a messa nella festa dell'Immacolata? Ecco, possiamo definirla santuario quella? Forse no, però cos'è? Ecco, questo censimento, questa volontà di studiare e censire i santuari ha quindi dovuto affrontare sia problemi di carattere definitorio, cosa sono i santuari, quali sono i santuari, sia problemi di carattere metodologico legati alla necessità di mettere assieme persone di competenze diverse per studiare questi oggetti, perché sono oggetti che hanno una vita molto lunga spesso nel tempo, e quindi devi mettere assieme lo studioso di storia antica, quello di storia medievale, quello di storia moderna, quello di storia contemporanea, devi mettere assieme lo storico dell'arte, l'archeologo, il sociologo, l'antropologo. È stata quindi un'operazione molto lunga, perché vi ho detto appunto cominciata nella seconda metà degli anni 90 e non si è ancora conclusa. Molto lunga e molto complessa, e che anche quando i suoi esiti non sono stati ottimi, perché c'è sempre qualcosa, come dire, di cui bisogna discutere, e è stata feconda proprio perché ci ha costretto a questo insieme di interrelazioni fra discipline diverse e nella necessità di definire l'oggetto della ricerca. Questa ricerca, appunto, partita 15 anni fa, si è concretizzata prima in un database che è utilizzabile tramite internet, tuttora vivo e vegeto questo database, fatto di una serie di schede molto, appunto, schematiche, in cui di ogni santuario si dà, come dire, una definizione, delle date, si riempiono dei campi che spiegano chi è il patrono, qual è l'oggetto venerato, se c'è un oggetto venerato, quali sono i miracoli a cui ci si rifà, le date, l'appartenenza diocesana, una serie di elementi. E poi da qualche anno si è partito con la trasformazione di questo database in qualcosa di un po' più fruibile e di cartaceo, come vedete, dei libri. Quando io e il professor Varanini ci siamo accinti a trasformare le schede che avevamo raccolto in un libro, ci siamo confrontati proprio con questo problema definitorio. Cosa sono i santuari nella regione Trentino-Alto Adige, o più in generale nella regione alpina? Perché se c'è qualcosa che ci è sembrato di particolare, è stato che, a differenza di aree di pianura, le aree montuose vedono la presenza di tanti piccoli luoghi definibili, che si potrebbero definire santuari. Come se l'insediamento sparso, il fatto della difficoltà di spostarsi da un luogo all'altro, creasse tanti piccoli luoghi, tanti piccoli destinazioni di pellegrinaggio, mentre in pianura sembra quasi che sia più facile spostarsi e quindi individuare dei luoghi forti, importanti, grandi, che possono essere chiamati appunto santuari più facilmente e che quindi possono essere schedati più facilmente. Invece nelle nostre valli le cose sono più complicate e l'esito è stato la situazione paradossale di questo libro, che se lo aprirete troverete che ha 200 pagine di introduzione e 50 pagine di schedatura. È un po' il contrario rispetto a altri, perché abbiamo voluto costruire una serie di introduzioni molto lunghe, tematiche, in modo tale da far rientrare molti altri luoghi in questa classificazione, in questa schedatura, in questo ragionamento. Magari voi non troverete la chiesa che vi interessa, il luogo che pensate sia significativo nella schedatura, nella parte finale, non ci sarà una scheda per conto suo, ma se andate a vedere l'indice analitico troverete che è menzionato più volte nelle introduzioni, e in questo modo abbiamo recuperato, come dire, la memoria di tanti luoghi che altrimenti sarebbe difficile trattare uno per uno con una scheda autonoma, uno per uno. E uno dei casi al quale abbiamo dedicato un'introduzione specifica è quello della Val Venosta, studiato appunto da Stefania Lorandi, che ha approfondito questo argomento nel libro, quello della devozione in Val Venosta e quindi della presenza di tante piccole o neanche tanto piccole chiese, insomma, che hanno goduto nel passato o nel presente di una speciale devozione, non quindi magari grandi santuari in senso stretto, ma tanti luoghi che possono essere studiati e che si capiscono meglio nel momento in cui li studi assieme, anche non come un entomologo che studia una farfalla alla volta, ecco, ma come un biologo che studia anche l'evoluzione della specie e comprende anche perché ci sono somiglianze e differenze nel mondo animale. Ecco. Abbiamo fatto poco, alla fine c'è poco Linneo, non so se Linneo avete presente, è stato colui che ha inventato la classificazione degli animali con loro genere, specie, e c'è molto Darwin nel senso di uno studio invece che cerca di cogliere anche il percorso evolutivo. Io ho finito questa introduzione e passerei la parola a Stefania Lorandi per il suo intervento, dopodiché riprenderò la parola per una aggiunta a questi ragionamenti. Grazie. Sì, dunque, come ha giustamente detto il professor Kurzel, è molto difficile definire che cosa sia esattamente un santuario. E personalmente nel mio articolo ho effettivamente fatto una scelta in base non solo diciamo al fatto che alcune chiese siano effettivamente definite come santuari, ma anche in base a un determinato culto che si è sviluppato non tanto in quanto santuario ma quanto devozione locale, ed è questo per esempio il caso di San Florino che andrò successivamente a raccontare. Questa sera però ho voluto portare, diciamo, una presentazione un po' più ampia, per cui prendendo anche spunto dall'articolo del dottor Andergassen, che ha trattato, diciamo, i santuari dal punto di vista artistico, per cui storico-artistico, quindi dal punto di vista delle crocifissioni, degli altari, degli oggetti di devozione. E poi anche basandomi sull'articolo di padre Pacchin, che ha scritto diciamo un testo su le devozioni attuali a Pietralba, per cui le processioni attuali del XXI secolo. La prima immagine che vi mostro è sulla chiesa di San Nicolò a Caldaro, una chiesa che vediamo nella sua veste gotica, ma che ha avuto anche un passato appunto romanico, ancora visibile in parte nel campanile. All'interno di questa chiesa si venera un'immagine, che è quella che vedete nell'altare, per cui diciamo questo entrato effettivamente, questa chiesa è entrata nella schedatura del volume tra i santuari. Perché? Perché effettivamente intorno a questa immagine si è sviluppato un culto, ed è un'immagine che in realtà è una copia del Sassoferrato, un artista italiano, da cui viene ripresa l'immagine che adesso vediamo qui in maniera ravvicinata, e è una copia del tardo 600 e in pratica questa immagine avrebbe pianto delle lacrime di sangue durante una cerimonia e da allora avrebbe preso posto sull'altare e avrebbe anche realizzato numerosi miracoli, da qui anche la nascita di Ex Voto, quindi la realizzazione di numerosi Ex Voto. Questo è un caso in cui appunto il santuario si sviluppa attorno a un'immagine di questo tipo. Come anche nella vicina chiesa, ci spostiamo di poco, Santa Maria Rast, che si trova tra Cornaiano e San Michele, frazione di Appiano, una volta era diciamo più all'interno del paese, oggi si trova praticamente in prossimità della strada. È una piccola cappella sorta all'inizio verso gli anni 30 dell'Ottocento, ma nasce su un più antico tabernacolo dove, diciamo, sì, un tabernacolo dove c'era all'interno un'immagine sacra di Maria, che è questa. Questa immagine sarebbe stata realizzata da un pittore tedesco e inviata a un parente della frazione di San Michele come immagine ripresa a sua volta da un'iconografia della zona di Viterbo. Verso la fine del 400 a Viterbo questa iconografia della Madonna avrebbe sudato del sangue dalla fronte, e a distanza di qualche tempo, quindi già nel 700, questa immagine arriva praticamente anche ad Appiano. Quindi con dei giri molto interessanti anche, prima un'immagine del Sassoferrato, adesso un'immagine comunque proveniente da un'altra realtà italiana. Posta anch'essa sull'altare avrebbe realizzato determinati miracoli, guarigioni e anche la salvezza da incidenti, e questi sono in pratica gli ex voto che sono stati realizzati tra la fine dell'Ottocento e inizi del Novecento e posti su, nel presbiterio, nella parte destra del presbiterio. Solitamente si riprende sempre l'immagine appunto oggetto di devozione e qui ne ho ritagliato una parte, vedete i due angeli sorreggono la coroncina da cui dalla fronte praticamente esce il sangue. Nel cartiglio il bambino Gesù porta una scritta in Schoß Mutter sitz die Weisheit des Vaters, cioè nel grembo della madre risiede la saggezza appunto del padre di Dio, una scritta tratta dal latino. E poi è interessante anche lo sviluppo dei santini, che effettivamente è un oggetto di devozione popolare molto diffuso, ne abbiamo molti anche per quanto riguarda l'Alto Adige, difficili da rintracciare, ogni tanto ne escono fuori su qualche sito e quindi si riescono ad acquistare. Questo per esempio appunto raffigura il quadro devozione di Santa Maria Rast, sono della fine dell'Ottocento, inizi Novecento, sono santini merlettati. Questo l'ho preso come esempio di un culto, di una devozione locale che però non può, non è entrata all'interno del volume perché non è un vero e proprio santuario. È il campanile simbolo della chiesa di San Paolo, quindi siamo sempre nel comune di Appiano, uno dei campanili più alti dell'Alto Adige, una chiesa molto bella dedicata ai santi Pietro e Paolo. All'interno c'è questa statuina della metà del 400, una pietà di stile nordico inserita in un altare più tardo, un altare neogotico. Questa statuina è oggetto di devozione almeno si pensa fin dal 500, perché la prima domenica di maggio in pratica gli abitanti del Renonsi sarebbero recati in pellegrinaggio appunto in questa chiesa nei confronti di questa scultura, di questa Madonna. Di fatto, non è entrato appunto nella schedatura, perché effettivamente è un culto che col tempo è andato un po' perdendosi, per cui in realtà oggi è più non un vero e proprio santuario, ma una chiesa di devozione più che altro individuale. Bolzano. A Bolzano abbiamo nel Duomo una statuina che dà l'avvio a un culto ed è collocata nella Cappella delle Grazie, che è l'ultima diciamo aggiunta barocca o tardo barocca al Duomo gotico. Il Duomo, sappiamo, di sotto possiede una basilica di V-VI secolo che Erasmo ha potuto vedere nel 1948 dopo il rifacimento del piano pavimentale. E poi appunto viene realizzato in forme prima romaniche e poi gotiche, e infine ha questa aggiunta diciamo tardo barocca e poi ovviamente rifacimenti a causa della seconda guerra mondiale, a causa dei bombardamenti. Nella cappella tardo barocca, affrescata da un pittore piuttosto importante proveniente dalla Slesia, che è Carlo Enrici, che tra l'altro ha appunto affrescato anche Palazzo Mens, abbiamo questi affreschi nelle volte che raffigurano, in questo caso abbiamo la presentazione al Tempio di Maria, quindi storie della vita di Maria e poi il ciclo della vita di Gesù, e all'interno la statuina di Santa Maria in Mos, cioè Santa Maria della Palude, una statuina che secondo la leggenda sarebbe stata trovata da un pastore in una maniera un po' particolare, perché passando dove adesso praticamente c'è la cappella avrebbe sentito una voce che chiedeva aiuto, ma non vedendo nessuno stava per proseguire, quando guardando per terra vede questa statuina, ed ecco allora che questo diventa l'oggetto di devozione di questa cappella. Anche in questo caso non si conoscono pellegrinaggi collettivi diciamo all'interno della Cappella delle Grazie, quanto più diciamo una devozione individuale. Tuttavia vi è comunque questo ritrovamento miracoloso che è un po' il topos, un topos comune che lega la nascita di molti santuari. Quindi abbiamo sia la devozione nei confronti di un'immagine miracolosa, sia la devozione nei confronti di una statuetta ritrovata. L'immagine può essere anche a volte portata in volo dagli angeli e lì sorge poi il santuario. La statuina è molto bella, è della metà del 200, purtroppo fratturata e ricomposta varie volte, avrebbe una provenienza di ambito veronese ed è posta ovviamente in un tabernacolo più tardo. Qui ho voluto prendere anche un'altra immagine molto così venerata, che è questa Pietà, sempre all'interno del Duomo di Bolzano, all'interno di una vetrinetta della metà del 400. È molto simile a quella che abbiamo visto di San Paolo. Sabiona, chiusa, è un santuario sicuramente molto importante dell'Alto Adige, dove abbiamo invece pellegrinaggi collettivi, per cui ogni 3 anni, a partire dalla Valbadia, dalla chiesa di Santa Croce della Valbadia, gli uomini della comunità si recano nel giorno di Sant'Antonio, tanto che sono chiamati appunto gli Antonius Men, si recano praticamente in pellegrinaggio nella chiesa di Santa Croce a Sabiona. Il pellegrinaggio dura praticamente 3 giorni. È un pellegrinaggio che viene fatto per chiedere aiuto per il raccolto praticamente, in un momento dell'anno un po' difficile. Per cui si fanno ben quasi, diciamo calcolando, più di 50 km a piedi e salgono praticamente verso la Via Crucis che porta su questa collina e arrivano nella chiesa di Santa Croce, dove venerano il crocifisso ligneo che vediamo, che è del maestro Leonardo di Bressanone ed è della metà del 400. Questo è l'oggetto di venerazione a cui si chiede aiuto per appunto il raccolto in questo periodo dell'anno. La chiesa, come vedete, ha affreschi prospettici molto belli, realizzati da Johann Baptist Huber, che è tra l'altro il pittore che ha realizzato gli affreschi insieme a Johann Baptist Straub nella chiesa del Virgolo, nella chiesa del Calvario al Virgolo, e vedete, sono affreschi molto particolari del Settecento inoltrato, e sul soffitto appunto dipinto addirittura su tela di juta abbiamo le varie scene della Passione di Cristo, per cui si può vedere la crocifissione, la flagellazione dall'altra parte e le altre scene. Questo santuario è appunto nelle nostre schede del volume. E poi non poteva mancare il santuario di Pietralba, che è un santuario importantissimo dove si contano addirittura 300.000 visitatori all'anno. È uno dei santuari più importanti dell'area, diciamo, tedesca. Abbiamo provenienze sia da tutta Italia che anche soprattutto dalla Germania, dall'Austria, e sono appunto pellegrinaggi per lo più collettivi ma anche individuali. È un santuario che nasce in pratica sul luogo di una cappella. Lì vicino c'è comunque una cappella dedicata a Leonard, che era un contadino del luogo che, cadendo da un dirupo, si fece male, ma fu praticamente tratto in salvo, e su questo posto, diciamo, nasce poi appunto la devozione verso la Vergine. E qui vediamo all'interno tutta una serie di ex voto, non se ne contano veramente più da quanti sono. I più recenti sono posti così, si possono vedere lungo i corridoi. I più antichi, parte dei più antichi, perché purtroppo alcuni furono distrutti con la soppressione di Pietralba da parte di Giuseppe II verso la fine del Settecento, i più antichi sono invece conservati negli archivi. E si possono vedere veramente ex voto di tutti i tipi, per grazia ricevuta dalla guarigione di una malattia, ma anche per essere tornati incolumi dalle guerre dell'Afghanistan, quindi anche molto recenti. In media se ne contano uno ogni settimana, per cui ne vengono realizzati sempre di nuovi. Anche in questo caso c'è questa immagine particolare della Pietà portata in volo da due angeli, sempre di un santino. E infine invece il caso di cui mi sono occupata non è un vero santuario, ma lo trovo molto importante per la Val Venosta, è la chiesa di San Florino di Mazia, una chiesa del 1152, attestata per la prima volta. Ovviamente questa non è, diciamo, la chiesa di quell'epoca. Mazia è un paesino veramente molto piccolo che sorge all'interno di una vallata laterale, ha una piazza per intenderci, un bar e pochissimi abitanti, però ha questo santo che, secondo la leggenda, secondo la vita geografica, sarebbe nativo della Val di Mazia, la vita geografica della metà del 400. Quindi una vita piuttosto tarda rispetto a quella precedente, in cui purtroppo il nome Mazia non viene citato, viene citato in un secondo momento. Però fin dall'inizio la vita ci dice che questo santo è nato in Venusta Vallis, per cui in questa Val Venosta. Dovete sapere che gli abitanti del luogo sono molto molto fieri di avere un santo nativo, tanto che quando siamo andati con l'archeologo Bombonato a fare delle foto a prendere contatti con queste persone, ci hanno fatto vedere un album pieno di ricordi con tutto quello che era stato realizzato dalla popolazione del luogo su Florino, per cui rappresentazioni teatrali, anche scolastiche e non, concerti, ovviamente pellegrinaggi, ma anche, ad esempio, questo mi ha colpito molto, hanno coniato delle monete sul santo. Ce l'hanno raccontato con una tale passione che effettivamente è difficile non vedere, diciamo, questo come un culto vero e proprio, cioè radicato, no, in questa valle. Qui vedete l'immagine, questo è Florino, un affresco tardo, tardo 800, inizio 900, e la rappresentazione più tipica, in cui Florino versa del vino a la moglie di un povero ammalato, e lui aveva trasformato, diciamo, l'acqua che aveva con sé in vino. Questo è il miracolo più comune poi anche. Florino è legato però anche alla Bassa Engadina, perché in pratica lui diventa parroco della chiesa di Remus, che è l'attuale Remus. E in un certo senso diventa il santo che lega questi due territori nel 1200, 1300, insomma, adesso se possiamo stare alla prima vita e pensare che lui sia già effettivamente nativo della Val di Mazia, si potrebbe pensare che già da allora questo santo avrebbe fatto da collante fra i due territori, che erano poi di fatto dominati dai signori di Mach e di Tarasp, i quali avrebbero potuto probabilmente usare questo culto per creare questo legame tra le due località, in modo che non ci fossero comunque dei conflitti, tanto che la vita stessa narra di un conflitto intorno alle spoglie del santo, nato tra ovviamente i nativi della Val di Mazia, che volevano le spoglie diciamo per il loro paese, e invece gli abitanti di Remush, che volevano ovviamente che le spoglie rimanessero lì dove Florin era morto, dove aveva svolto la sua attività. Questa lite viene sedata grazie all'intervento in vita di Florino, che aveva ricevuto a sua volta una, diciamo, un pronostico, in realtà una visione da parte di Dio. Per cui è interessante poi alla fine leggere comunque questa leggenda agiografica, che dobbiamo sempre prendere con determinati ovviamente punti di domanda, però comunque trarne diciamo poi trarne il succo e vedere che effettivamente un culto può unire comunque delle località, e a livello anche sociale può essere un collante molto importante per la popolazione. Questo è quello che appunto ho percepito recandomi in Val di Mazia, e questa sarebbe la cappella dove lui si dice sia nato, diciamo, è stata costruita sul luogo della sua nascita. Bene, l'altare. Io vi ringrazio e passo la parola al professor Curzi. Grazie Stefania Lorandi, la quale ha già, come dire, costruito una carrellata di situazioni, di luoghi che mi permettono in qualche misura di dare già per scontato il fatto che di qualche caso abbiamo già parlato di santuario, perché la mia intenzione sarebbe quella di tentare un ragionamento un po' più complessivo sull'identità dei santuari. Adesso spero di farmi capire. Cercando di leggere la loro storia, cioè ancora una volta non la storia di un singolo santuario, ma la storia della santuarialità, ammesso che esista questa parola. Qui vedete sullo schermo un po' un'immagine che ci riporta una prima dimensione del santuario, quella legata ai resti del santo. Questo è San Cassiano, venerato sulla rocca di Sabiona già nell'anno 845, perché questa è una testimonianza molto antica. Poi la leggenda lo ha trasformato nel primo vescovo addirittura di Sabiona, ma questa per l'appunto è una tradizione tardiva, anche se poi a lungo difesa dalla chiesa brissinese. Se andate nella cattedrale di Bressanone trovate gli affreschi che raccontano appunto le storie di San Cassiano. Ma un passo ancora più indietro, il santuario cos'è? È il luogo in cui l'uomo ritiene di incontrare Dio, e quindi è la percezione, la consapevolezza della discontinuità dello spazio, il fatto che lo spazio non è tutto uguale, ma ci sono spazi diversi. È una convinzione molto umana, io non sono un antropologo, ma ritengo che insomma si possa affermare che nella nostra vita noi percepiamo non tutti gli spazi sono uguali, ci sono spazi che ci avvicinano di più a dimensioni profonde del vivere, ma che non è parte in realtà di molte religioni, cioè il cristianesimo, l'islam, il buddismo, per esempio, in linea di principio non avrebbero santuari, hanno tempi sacri, momenti sacri, ma non spazi sacri, perché Dio è onnipresente e la sede privilegiata di Dio è l'animo umano. Anche l'ateismo mediamente è profondamente convinto di questo aspetto. Un ateo materialista ritiene che lo spazio non sia discontinuo, però ad onta del fatto appunto che abbiamo molte religioni che ritengono che lo spazio non sia discontinuo, il dato di fatto è che gli uomini generalmente lo percepiscono come tale. E la cosa appunto, in realtà, perché questo discorso delle reliquie, della venerazione delle reliquie è importante? Perché per una lunga prima fase della storia, questo è il reliquiario di San Vigilio nella cattedrale di Trento, questo è un reliquiario trovato vicino a Castel Tirolo, In realtà la meta del cammino umano alla ricerca del contatto con la divinità non è stata una meta rivolta a un luogo, ma rivolta a un oggetto. L'oggetto è spesso il corpo del santo, il corpo di qualcuno che in qualche modo è stato vicino a Dio, la sequela di Cristo fino alla morte, il martire. Colui che in qualche modo ha manifestato già in vita di essere amico di Dio con i suoi miracoli. E quindi il cammino dell'uomo che cerca Dio va a cercare questi oggetti. Questi che adesso vedete sul tavolo in modo così, come dire, poco rispettoso, sono i resti di San Vigilio studiati a Padova nel 75. Ma al di là del di solito noi le reliquie non le troviamo in questa forma, le troviamo in questa forma, appunto l'osso qui sotto di San Cassiano. Ebbene, la convinzione profonda appunto è quella di avvicinarsi a Dio anche tramite il contatto con questi oggetti, perché se crediamo nella risurrezione dei morti, se crediamo che anche quel corpo sia pure disfatto vedrà la salvezza, vedrà Dio, allora io raggiungendo quell'oggetto raggiungo qualcosa che ha a che fare con Dio. E quindi nella tarda antichità, in gran parte del Medioevo, questa è stata la meta del cammino umano. Per richiamare ancora il caso di San Florino, c'è una parte della sua leggenda che potremmo giudicare anche macabra se volete, ma che ci dice ancora di questo clima. Il corpo di San Florino, dopo un periodo di dimenticanza, viene ritrovato, anche qui miracolosamente. E lo ritrovano incorrotto, è tipico dei santi, oltre che dei vampiri, conservare un corpo appunto incorrotto anche nella morte, e lo ritrovano non solo incorrotto, ma che gli sono cresciuti i capelli e la barba. Allora, per onorarlo, decidono di raderlo e di lavarlo, solo che con cosa lavi il corpo di un santo? Non lo lavi con l'acqua, lo lavi col vino. Il vino usato per lavare il corpo di Florino diventa un potente rimedio contro tutte le malattie, per cui coloro che vengono bagnati col vino usato per lavare questo cadavere vengono guariti miracolosamente. Perché mi interessava questo? Perché il percorso verso i santuari come luoghi sacri passa da questa parte, passa per una lunga fase durante la quale appunto in realtà non è il luogo ma è l'oggetto che è destinatario della nostra devozione. Il Medioevo vede questi grandi pellegrinaggi verso anche alcuni luoghi, ma appunto sono i luoghi di conservazione delle reliquie, a Roma, dove si dice si conservino grandi reliquie della Passione di Cristo, Santiago di Compostela, dove c'è il corpo di San Giacomo, e ovviamente la Terra Santa, che è il luogo in cui si ricorda i luoghi della vita di Cristo. Ma accanto alla fama di queste grandi mete di pellegrinaggio si rileva la costruzione di molte chiese minori che in qualche modo segnano anche le tappe di un percorso verso queste mete maggiori. Il tardo Medioevo però vede un'evoluzione che porta un po' alla nascita del santuario. Adesso salto alcune cose che mi hanno segnato. Questo a proposito di reliquie, sono le reliquie del Beato Enrico che trovate nella chiesa del Duomo di Bolzano, questo che sarebbe originario di Bolzano, morto a Treviso in fama di santità nel XIV secolo. Alcuni dei suoi resti furono riportati a Bolzano nel 700 e sono conservati appunto in questo reliquiario di cristallo nella Duomo di Bolzano. Saltiamo questa parte che era dedicata alle chiese secondarie, perché non voglio farla troppo lunga, ecco, e arriviamo qua. E arriviamo all'evidenza che nel tardo Medioevo, questa è la Madonna della Palude di cui ha parlato un momento fa anche Stefania Lorandi, cominciano a rendersi evidenti i flussi di pellegrinaggio non più solo verso le grandi mete, ma anche verso queste mete intermedie per i grandi pellegrinaggi e verso oggetti che non sono più le reliquie, ma sono qualcosa che ci richiama alla determinate figure sacre, e in particolare la figura di Maria. Maria, madre di Gesù, e diviene destinataria di una speciale devozione che non è più basata sulle reliquie, anche perché Maria è assunta in cielo, e quindi per carità, ci può essere quella chiesa in cui si conserva l'anello della Madonna, c'è cioè, Perugia, mi pare, qualche posto del centro Italia. A Prato? La cintura a Prato, esatto. Ci sono anche delle reliquie di cattivo gusto, potremmo considerarle tali, resti del latte della Madonna, non oso pensare come abbiano immaginato di esserselo procurato, ma insomma, però qualcosa che ci richiama alla figura mariana non può che essere una sua immagine. Qui nascono le leggende circa il fatto che Luca sarebbe stato un pittore, avrebbe preso una raffigurazione di Maria che poi copiata sarebbe in qualche modo vera, nel senso di simile alla figura originale. Ma in generale, appunto, troviamo che Maria diviene destinataria di una devozione che non può essere contestata dalle autorità ecclesiastiche. Non è una santa che ha bisogno di canonizzazioni, Maria, e che con la sua figura materna diviene particolarmente significativa proprio perché può essere colei alla quale ci riferiamo, colei alla quale ricorriamo in epoche di angoscia e di pericolo. Pensate solo alla diffusione della peste a partire dal XIV secolo. E questa presenza di questi, appunto, di queste statue prima e poi immagini che anche quando ci raffigurano Cristo morto, in realtà vivo o morto, in realtà finiscono con l'essere con attirare l'attenzione su Maria. Qui abbiamo Madonna col bambino, no? Poi abbiamo qui Madonna col Cristo morto, questa è un'immagine di Dobbiaco, questa è un'immagine di Rifiano vicino a Merano, questa siamo invece a Borgo Valsugana, questa è Cavalese, l'immagine della Pietà. Questa è la Madonna delle Laste vicino a Trento, qui siamo già nel 500, questa è già vista Pietralba, un'altra immagine della Pietà, questa è Riva, l'Inviolata, anche qui un'immagine mariana, questa è un'immagine di Casezza in Val di Non, Folgaria, Civezzano, Maria Salen, Madonna di Sares, siamo vicino a Brunico, e questa è la Madonna di Senale, in cima alla Val di Non, ma territorio altoatesino. E sono, è una scelta evidentemente, ci sono tante altre immagini mariane, ma la cosa interessante è che queste immagini generalmente sono, si giustifica la presenza di queste immagini in quel luogo con una narrazione che vorrebbe dimostrare l'impossibilità di venerare altrove quell'oggetto. Prima Stefania Lorandi accennava appunto a tradizioni miracolistiche legate a quell'oggetto, a angeli che portano l'oggetto in quel luogo, ma spesso sono anche racconti molto vividi di falegnami che si feriscono mentre carpentieri che si feriscono mentre costruiscono una chiesa in un luogo, e gli uccelli che prendono i ritagli delle schegge di legno bagnate di sangue e li portano nel luogo dove la chiesa deve venire costruita, perché la divinità vuole che là sia costruita quella chiesa, oppure di tentativi di trasferire l'immagine sacra in un altro luogo e l'immagine improvvisamente diventa pesantissima e non si può spostare, oppure la mattina la si porta nella chiesa parrocchiale e la mattina dopo la si ritrova nel luogo in cui era stata ritrovata, torna indietro, non vuole spostarsi. Ci sono leggende, appunto, a volte anche articolate, oppure che una comunità decide di costruire una chiesa ma non sa dove, allora pone l'immagine sacra su un carro, lascia liberi i buoi girano per un po' fin quando si fermano in quel luogo. Sono leggende spesso costruite molto a posteriori. Quella che riguarda, per esempio, Cernes in Val Venosta, e adesso non so se c'ho un'immagine, vediamo un po', Spor Maggiore, e ecco, questa l'abbiamo vista prima, San Nicolo di Caldaro, Maria Trens, importante santuario anche prima di Vipiteno, questa non volevo trovare quella, vediamo un po', scusate che qui mi saltella. Ecco, immagini di ex voto che ve le fate vedere anche prima, Stefania Lorandi, di come si affollano anche queste immagini che attestano la, ecco qua, Cernes. Allora, c'è una leggenda legata al ritrovamento da parte degli uomini di Cernes di una statua mariana che sarebbe stata buttata in acqua dai protestanti della Val Monastero. Val Monastero, questo è l'embo di Val Venosta, che però è territorio svizzero, in parte passati al protestantesimo, e la leggenda vuole del ritrovamento di questa immagine sacra. Quindi il miracolo sta in questo ritrovamento e nella volontà di, come dire, vendicare quasi l'affronto fatto a Maria dai protestanti, dando a questa immagine un nuovo luogo per essere venerata. Il problema è che poi c'è lo storico che ti tira fuori l'attestazione che c'era già un santuario con un'immagine venerata nel 1501. Ora, se vi ricordate la cronologia legata allo scisma protestante, insomma, cioè, è chiaro che si tratta di un'invenzione a posteriori, una leggenda costruita dopo per giustificare la presenza in un luogo di un'immagine. E a questo punto però, con questa situazione, abbiamo il santuario un po' per come lo conosciamo noi oggi, il santuario dell'età moderna, al quale un uomo va nella convinzione che quello sia davvero lo spazio sacro, che Dio ha voluto, che Maria ha voluto, perché l'uomo trovasse in quel luogo protezione, conforto, liberazione dai mali del corpo e dell'anima. È la situazione che il Concilio di Trento conosce bene, perché il Concilio di Trento non parla mai di santuari, anche sulla parola santuario si potrebbe discutere la storia del termine, però passa in rassegna tutte quelle pratiche devozionali, la preghiera di intercessione, le forme di devozione, gli oggetti materiali che sono destinatari di onore e di venerazione, che si svolgono appunto nei santuari, e conferma la validità di queste pratiche. Concilio di Trento nella seconda metà del Cinquecento, chiaramente anche in funzione antiluterana, Lutero ha contestato le pratiche, le opere, i pellegrinaggi, le indulgenze, la venerazione dei santi. La Chiesa Cattolica, come dire, anche per contrapporsi allo scisma luterano, invece rivaluta in qualche modo queste pratiche, sia pure cercando di limitarle. Si è bandita ogni superstizione, si è eliminata ogni turpe ricerca di denaro, si è evitata ogni licenza in modo di non dipingere o adornare le immagini con procace bellezza. Insomma, alla fine l'immagine sacra deve richiamare alla santità del luogo, non deve distrarti. Così pure i fedeli non approfittino delle celebrazioni dei santi e della visita alle reliquie per darsi all'abuso del mangiare e del bere, quasi che le feste dei santi debbano celebrarsi col lusso e la libertà morale. Il Concilio di Trento ci dà già anche il quadro di quello che poteva essere il pellegrinaggio. Era il momento del divertimento, nel senso etimologico del termine, del cambiare strada, nel senso dell'uscire dalla quotidianità, dell'affrontare l'avventura, con tutti i rischi che potevano esserci anche per la morale, evidentemente. E noi troviamo per secoli le visite pastorali o i rendiconti dei parroci che disegnano anche un quadro a tinte non esattamente positive dal loro punto di vista per quanto riguarda la devozione. E quindi nel Settecento troviamo, come dire, il pendolo va indietro, va contro i santuari. Prima accennava Stefania Lorandi alla distruzione anche di patrimoni di carattere storico-artistico per quanto riguarda le chiusure settecentesche. Secondo Settecento, prima Giuseppe II dalle nostre parti, poi Napoleone, ma questo avviene anche in altre parti d'Europa, decidono di limitare i pellegrinaggi, di chiudere i santuari, che sono luoghi di confusione, se non di dissolutezza addirittura, perché i pellegrinaggi sono appunto questi momenti di divertimento. Per alcuni giorni si va fuori, uomini e donne, si dorme in luoghi di fortuna, voi capite cosa può significare questo dal punto di vista della morale pubblica, si fa la festa, si fa la fiera, si beve. Questa era un'occasione appunto che vengono in qualche modo limitati, sia l'autorità civile che l'autorità ecclesiastica sono d'accordo in questo. Io dico sempre attenzione, poi ci sono approcci diversi, dalle nostre parti si vietano i pellegrinaggi che durano più di un giorno, che non salti fuori, che si dorme fuori, perché dormire fuori è sempre... oppure si fanno i pellegrinaggi solo uomini, come accennavo un momento fa sul pellegrinaggio della Valdadia, no? Ma perché sono solo uomini? Perché è una roba medievale? No, perché nel Settecento hanno vietato che ci andassero anche le donne. Da altre parti si fanno scelte diverse. In Piemonte il santuario di Oropa sopra Biella hanno costruito un santuario con 2000 posti letto, rigidamente diviso fra maschile e femminile, perché se la gente sta via la notte almeno si sappia dove dorme, camera maschile e camera femminile, ecco. Quindi una regolamentazione, una limitazione che vuole in qualche modo anche cercare di evitare di deprimere le parrocchie, di deprimere l'organizzazione pastorale ordinaria, di far dimenticare la centralità di Cristo nel cristianesimo, magari a vantaggio di questo o di quella Madonna. E quindi una fase che fa piangere gli storici dell'arte, ma che uno storico della Chiesa non può cogliere semplicemente come un momento di distruzione. È un momento di recupero, tutto sommato, invece anche della problematicità del santuario, che poi nell'Ottocento cambia ancora di senso, perché nell'Ottocento, adesso qui Madonna delle Lastre, Madonna in Montagnaga di Pinè, Pietralba abbiamo visto un momento fa, l'Inviolata di Riva del Garda, la Madonna del Monte Rovereto, San Romedio, ecco, restiamo su San Romedio un attimo. E nell'Ottocento abbiamo una nuova fase di storia dei santuari, che diventano, più di quanto non fossero stati prima, un luogo di mete di pellegrinaggi collettivi. Certo, ci andavano in gruppo anche prima, ma ci si va in gruppo perché è un viaggio lungo. A questo punto ci si va in gruppo perché si vuole sottolineare la propria identità di gruppo. Può essere un'identità religiosa, quindi noi chiesa di quel paese, noi chiesa di Trento, di Bressanone, in gran numero andiamo a quel santuario per dimostrare che ci siamo, per dimostrare di fronte a una società che è meno cristiana di prima, una società che rifiuta magari determinati, che afferma nuove leggi, che afferma la sua autonomia rispetto alla dimensione religiosa, il pellegrinaggio, il santuario diventa un luogo di identità confessionale o anche nazionale, perché da quando Andrea Sofer è andato a San Romedio è chiaro che San Romedio diventa uno dei luoghi dell'identità tirolese, anche se nel Westtirol, nel Tirolo italiano. Quindi è una l'Ottocento e un po' anche il Novecento ci mostrano santuari che spesso prendono questa piega, come dire, di sottolineatura della identità di un luogo, identità di un gruppo. Questo è il monumento a Cristo Redentore costruito vicino al santuario di Montagnaga di Pinè all'inizio del Novecento, proprio con la volontà di affermare un ineunte secolo ventesimo. L'inizio del ventesimo secolo vede la collocazione di molte croci in cima alle nostre montagne. Non ci sono sempre state in cima alle montagne le croci, c'è un momento particolare in cui arrivano le croci in cima alle montagne ed è spesso l'anno 1900. Ma in questo caso non c'è semplicemente una croce, ma c'è proprio un monumento a Cristo Redentore per affermare questa identità di Chiesa. E c'è un altro esempio che volevo farvi vedere, se lo troviamo. Eccolo qua. In mezzo agli ex voti di Pietralba c'è questa collage di foto che ricordano un grande pellegrinaggio svolto a Weissenstein il 27 settembre del 1914, presente 14.000-15.000 persone, chiaramente siamo all'inizio del primo conflitto mondiale, e la popolazione tirolese ricorre alla Madonna di Pietralba a chiedere aiuto all'inizio del conflitto, della guerra. Quindi questi grandi pellegrinaggi di popolo, che sono qualcosa di diverso rispetto a quello che c'era prima, è una novità in un certo senso otto-novecentesca. Giungiamo quindi a tempi più vicini a noi, e con questo, ecco qua, Andreas Hofer, questo è il quadro di Andreas Hofer che trovate, per chi non l'ha mai visto, all'ingresso del santuario di San Romedio, proprio a ricordare il suo pellegrinaggio, scritto in latino, giusto per evitare polemiche, provincia defensor. E questa è un'immagine della processione della Madonna di Montagnaga di Pinè, anche qui siamo all'inizio del Novecento, proprio a ricordare questa presenza di gruppo, insomma, e in qualche modo identitaria. E la nuova fase, appunto, che si è aperta nel secondo Novecento è una fase ancora di riflusso, vedete questa storia del pendolo. Il Concilio Vaticano II ha ripreso in mano la questione, anche tornando a criticare in qualche modo la realtà santuariale, perché il Vaticano II quasi non ne parla e anzi implicitamente contesta il culto diverso dalla liturgia ordinaria. La liturgia è per natura sua di gran lunga superiore ai pii esercizi, e quindi rosari e pellegrinaggi e altro che si svolgono in questi santuari devono essere subordinati alla messa, alla liturgia ordinaria della Chiesa. E c'è da dire che però, appunto, negli ultimi anni c'è stato anche un rilancio con Giovanni Paolo II, soprattutto, della presenza dei, del ruolo dei santuari, che sono di nuovo tornati a essere negli ultimi sei anni, soprattutto dopo, con appunto, Giovanni Paolo II, col giubileo del 2000, e luoghi nei quali la pastorale ordinaria, come dire, la presenza della Chiesa può esplicarsi. E vorrei citare il direttorio su pietà popolare, liturgia, principi e orientamenti, uscito nel 2002, che dice: dal punto di vista teologico il santuario, che non di rado è sorto da un moto di pietà popolare, è un segno della presenza attiva, salvifica del Signore nella storia e un luogo di sosta dove il popolo di Dio, pellegrinante per le vie del mondo verso la città futura, riprende vigore per proseguire il cammino. Ecco, vorrei chiudere però con una battuta, che tanto battuta non è, ma insomma a colporre anche un problema. Io penso che stiamo già intravedendo una nuova fase della storia dei santuari, perché a questo tentativo, come dire, della Chiesa istituzionalmente intesa di rifare propri i santuari, di ridare un ruolo ai santuari, io intravedo invece anche un momento di nuova dimensione identitaria del santuario, non più in chiave religiosa ma in chiave territoriale, se non in chiave turistica, vorrei dire. E qui vedete una lapide che è presente all'interno della chiesa di Madonna di Folgaria, Madonna di Grazia di Folgaria, siamo in Trentino, è una stazione sciistica, e nel 1955 fu proclamata patrona degli sciatori, la Madonna della Grazia di Folgaria, se non che la parola sciatore in latino non c'è, per cui bisogna scrivere e ora un patrona qui oblongis muniti soleis per nives frolabuntur, di coloro che muniti di lunghe suole scivolano sulle nevi. Questa è la frase che fu coniata per tradurre la parola sciatore in latino, perché i romani non sciavano, e allora patrona di coloro qui oblongis muniti soleis per nives frolabuntur. Ecco, però al di là della, come dire, di questa, possiamo fare ironia su questa traduzione, la percezione che ho appunto del fatto che oggi il rilancio dei santuari passa anche attraverso una loro caratterizzazione territoriale e turistica, ebbene questa è un po' una mia percezione, che mi porta anche a chiedere se di fronte a noi non sta un'epoca di allontanamento fra la Chiesa istituzionale e il mondo dei santuari, forse per tornare a un'epoca medievale nella quale appunto prima del Concilio di Trento i santuari erano, come dire, vissuti più spontaneamente, e sia chiaro che non voglio dare un'accezione positiva, automaticamente positiva, a questo avverbio. Vi ringrazio per l'attenzione e se avete qualche domanda siamo qui anche per rispondere. Nella mia disinteresse non ho fatto lo spazio pubblicitario, il volume è qui e se qualcuno lo volesse è anche in vendita, non costa poco. Quindi se non ne comprate non mi offendo, sappiate che il prezzo di copertina è 72 euro e io lo vendo a 50, se qualcuno interessa è qua, però torno a dire, se no me li porto a casa. Non preoccupatevi. Bene, la dimensione turistica ce l'ha anche nel Medioevo. In un certo senso sì, senz'altro, e diciamo che ho l'impressione che ci sia un tasso di organizzazione superiore in questo momento. Salve, buongiorno. Salve. No. Due domande. Una, sono, ho visto qualche esempio nei santuari, ci sono copie di altri santuari. Sì, perché l'età moderna, soprattutto l'età moderna, e anche quella contemporanea, vede il diffondersi di santuari ad instar, come dicono con termine tecnico, a somiglianza di. Il primo caso è quello del Santo Sepolcro, nel senso che già fin dall'epoca delle crociate capita che chi ha avuto la fortuna di fare un pellegrinaggio al Santo Sepolcro si porti a casa i disegni per riprodurre in scala 1:1 o in altre scale i luoghi della Passione di Cristo. Questa modalità di riprodurre appunto il santuario, i luoghi della Passione di Cristo, come dire, si ripete poi con le immagini mariane. Per cui dal 600 in poi, soprattutto, abbiamo il proliferare delle Madonne di Loreto, ad esempio. La Madonna che è di Madonna di Sares, Maria Salen, è una copia della Madonna di Loreto. Ma in realtà più andiamo avanti, più troviamo che è frequente che l'immagine sacra sia la copia di qualcos'altro. Cioè, le situazioni tardo-medievali o cinquecentesco spesso vedono una peculiarità, come dire, delle raffigurazioni. Ma poi più andiamo avanti, più troviamo che si tratta di copie. All'Asa si venera un'immagine della Madonna di Lourdes. E le immagini Madonna di Lourdes sono molto diffuse, così della Madonna di La Salette, un'apparizione avvenuta sulle Alpi francesi nel 1840, che anche qui trova delle copie. Prima Stefania Lorandi ha parlato di Maria Rast, anche lì si tratta di un'immagine copiata, come se ci fosse una garanzia, come dire, se la Madonna venerata in quel luogo viene venerata sotto con quell'immagine e funziona, scusate il verbo poco rispettoso, allora io posso sperare che funzioni se me ne faccio copia anche per me, nel mio paese, nel mio villaggio. La Madonna di Pinè, per esempio, Montagnanca di Pinè, è un caso molto spettacolare perché le apparizioni si realizzano dopo che è arrivato nel villaggio una copia dell'immagine della Madonna di Caravaggio. Cioè non è che c'è l'apparizione e poi portano lì un'immagine mariana, o che l'apparizione avviene quasi in contemporanea, poco dopo l'arrivo di questa immagine della Madonna di Caravaggio. Quindi c'è sicuramente questa dinamica imitativa che peraltro prosegue, perché come sapete Madonne di Fatima, di Medjugorje e di altri generi, insomma, continuano a... Cioè difficilmente si inventa qualcosa di nuovo, ecco, si tende a riprodurre immagini in qualche modo accreditate, ecco. E la seconda, in realtà ne avete parlato, di questi pellegrinaggi collettivi, e forse mi sono perso un attimo, e ce ne sono, per esempio questi dell'Albadia sono riferiti ad un certo territorio, questi esattamente a che epoca risalgono, se si può dire dire una cosa che suona bene, non mi stavi chiedendo per fino alla volta. Perché? Dunque, i pellegrinaggi collettivi, i pellegrinaggi collettivi in realtà ci sono, diciamo, tutt'oggi, come per esempio... Devo avere anche quella della Madonna di Senales, che se vi ricordo, eccola qua. Sì, ce ne sono, diciamo, a partire soprattutto, diciamo, in realtà quello che ho citato io, che era il caso della Val Badia, si ha dal 700 in poi, 6-700. In realtà ne abbiamo anche tutt'oggi, per esempio di gruppo, come diceva prima il professor Kurzel, come identità, inteso come identità, no? Per cui un villaggio, l'identità di un villaggio, oppure l'identità, per dire, dei vigili del fuoco, perché ci sono anche questi, no? Oppure ancora per quanto riguarda Pietralba, dove i pellegrinaggi arrivano da Bolzano, diciamo in particolar modo dal punto del gruppo tedesco, più che altro del gruppo linguistico tedesco, che percorrono poi la strada che da Laives porta a Pietralba, oppure anche dalla Valdega, e quindi di più comunità della Valdega, ecco, questi vengono, accadono, diciamo, tuttora. E in realtà in alcuni posti, come dicevo, a San Paolo, anche in altri casi, anche a Caldaro, devo dire, col tempo questo pellegrinaggio collettivo si è andato un po', è andato esaurendosi, è rimasta più un'identità individuale, o comunque più, sì, una cosa sentita più individualmente o da un gruppo familiare, ma non più pellegrinaggi collettivi. In ogni caso di pellegrinaggi si parla già, diciamo, in epoca barocca e anche precedente, sì, esatto. Sì, io ci tenevo un attimo a differenziare il caso, appunto, dei pellegrinaggi collettivi che si fanno perché così ci si aiuta, perché se devi fare un percorso di più giorni, anche solo di più giorni, più settimane addirittura, è chiaro che viaggiare in gruppo può essere più pratico, dalle situazioni nelle quali il gruppo manifesta la volontà di affermazione, di esistenza, ecco. E questo è, direi, fra 8 e 900 troviamo spesso pellegrinaggi collettivi che non sono semplicemente del aiutiamoci ad andare insieme in quel luogo, ma dimostriamo con la forza del nostro numero quello che siamo, la nostra identità, nostra volontà di affermare un valore, una... E questo può avere sia, come dico, un versante religioso che un versante civile, e se parliamo del Tirolo spesso le due cose si intrecciano. C'è un'altra domanda? Sì. Tornando un po' più indietro, a me non dispiace invece l'analogia che c'è spesso tra santuari e aree archeologiche, perché quella della leggenda, del mito su cui si fonda un santuario, in realtà, appunto, come dicevate prima, una notizia che viene dopo, un'invenzione che si deve attuare per giustificare una determinata cosa da un punto di vista religioso. Non sono state scavate tantissime chiese, santuari, però ci sono alcuni esempi, come Santa Giuliana in Val di Fassa, ecco, un santuario importante per la Val di Fassa, per i fassani stessi, e anche lì c'è la leggenda dei buoi che, lasciati liberi, continuano ad andare a occupare questa specie di collina che orograficamente era un disastro, però continuano ad andare lì, e lì viene fondato questo santuario. Sotto la chiesa di Santa Giuliana c'è un luogo di culto eretico, quindi è in realtà, da un punto di vista archeologico, quello che è l'impossessarsi di un luogo che ha valenza sacrale, però per quanto riguarda gli occhi di un cristiano di epoca pagana, allora è un immettersi, un sovrapporsi a una situazione sempre di natura sacrale, però di religioni apparentemente diverse, come ad esempio mi viene in mente la chiesa di San Giorgio a Corces, dove abbiamo effettivamente una chiesina minuscola, è una piccolezza impressionante, quasi così, sarà 2,5 metri di lunghezza questa chiesa, forse arriva a 3 metri, però quel luogo era un luogo in cui c'erano gruppi di persone che salivano appositamente per fare dei percorsi di devozione. Qui abbiamo invece un riscontro un po' più antico, risale al Bronzo Medio. Invece un'altra sorta di santuario, e lo considero tale perché sono risaputi moltissimi riti, moltissime processioni a San Pietro di Altenburg, sopra l'Alto di Callao, dove questa chiesa, anzi le rovine di questa chiesa, abbandonata dopo un incendio alla fine del Settecento, viene costruita nel luogo più strano della collina, perché la collina vera che doveva ospitare un castelliere tardo antico è quella più alta, dove abbiamo una chiesa dedicata a San Vigilio, non casuale. San Pietro invece è su una collina che apparentemente, pur essendo una collina, ma non era difensibile, cioè poteva essere tranquillamente attaccata da monte. La chiesa di San Pietro viene costruita in un punto abbastanza decentrato da questa collina, sopra esattamente un altare dell'età del ferro. Proprio l'aula è centrata esattamente su un altare del ferro. Quindi adesso io non piacerebbe andare a tirare via il pavimento a pietra alta del rinchio sotto, ma penso che sarebbe un'operazione sconcertante per alcuni. Ma c'è la possibilità che questi santuari, che nella zona alpina, come se ne sono visti adesso delle fotografie, e che si trovano soprattutto su Buzzoli, su colline, sto pensando alla chiesa di San Giacomo ad Ortisei, che sembra la fotocopia di Santa Giuliana a Vigo di Fassa, c'è la possibilità che effettivamente questi santuari nascano, per non parlare di Sabbiona, intendiamoci, Sabbiona è un luogo archeologico che parte dal Neolitico e finisce praticamente oggi. E nascano in luoghi dove già esistono santuari, ma di altra natura, con altre valenze, con altre religioni, con altre cose. Per cui non dimenticherei questo aspetto qui, che invece trovo che abbia un legame molto forte. Assolutamente sì, io sono d'accordo, come sai, e purtroppo, come hai detto, non ci sono molti scavi archeologici al di sotto di queste chiese che sicuramente ci aiuterebbero a restituire una storia, probabilmente, come dici, molto antica rispetto a questi luoghi di culto, che nella maggior parte dei casi, anche della Val Venosta, come ho potuto osservare, sono luoghi d'altura, colline sicuramente ben difese, soprattutto in un momento in cui abbiamo nella Val Venosta delle incursioni da parte di popoli barbari e quindi comunque il bisogno di costruire dei luoghi d'altura o comunque decentrati rispetto ai percorsi principali. E è molto probabile che se l'archeologia potesse fornire dei nuovi dati, diciamo, questi dati andrebbero a integrare quelli storici e quelli, sì, più che altro quelli storici sicuramente. Ma intanto io ho messo sullo schermo, perché mi piaceva come immagine, questo è un dipinto su tela, credo, che viene dalla chiesa dell'Inviolata di Riva del Garda, ed è uno dei miracoli che viene narrato in quanto di fronte a un capitello che vedete, come dire, di spalle sulla sinistra, viene un incidente, una persona viene travolta da un carro, vedete le persone che fanno appello all'immagine mariana per chiedere aiuto e il travolto miracolosamente se la cava senza danni. Questo ancora una volta per dire a volte come perché nasce in un certo luogo un santuario, almeno qual è la versione ufficiale, mettiamola così, perché chiaramente ho posto il problema della verosimiglianza o meno delle leggende di fondazione e del loro rapporto possibile con luoghi di culto già preesistenti. Vi dirò, io sono prudente e o diffidente a volte rispetto a queste generalizzazioni, nel senso che cerco di non fare antropologia, perché faccio lo storico. E definire la necessità di una continuità nel culto rispetto a un luogo nei secoli, scavalcando anche la discontinuità religiosa del passaggio dal paganesimo al cristianesimo, mi sembra un'ipotesi di lavoro ma non può essere un presupposto, ecco, mettiamola così. Cioè, possiamo rilevare questi dati ed è interessante quando riusciamo a rilevarli, prima sono stati citati giustamente alcuni casi, però preferirei appunto rilevarli e non presupporli, ecco, in questo senso qui. E questo si è detto appunto, questo non per smontare quanto è stato detto, ma per dire che mi sembra proprio che ci sia a volte una necessità anche di cercare il riscontro. Prima si è parlato di tirare sui pavimenti, ecco, io non so se troveremo dappertutto cose interessanti, ma attendiamo sempre che qualcuno si decida a cambiare il riscaldamento e quindi che si possa guardare cosa c'è sotto, perché la possibilità spesso passa anche attraverso le occasioni, cioè perché Erasmo ha potuto studiare quello che c'era sotto la chiesa di Bolzano, perché c'erano stati bombardamenti, non vorrei dover aspettare un altro bombardamento per riaprire un pavimento, ma per dire come appunto l'archeologo almeno debba evidentemente fare i conti con le possibilità che ha lo storico, per fortuna, se gli archivi conservano documentazione, la documentazione lì si tira fuori. Bene, grazie.